vederla fragile e stanca, ho sentito un tuffo nel cuore, poi le ho chiesto cosa ti manca. Ho perduto forse l'amore, la risposta mi è stata fatale, ho sentito anch'io il dolore, non lo so se la cosa è normale. Ho sofferto ancora l'amore, mondo avvolto da strani colori, d'altri tempi sembran tornati, con tormenti e nuovi bruciori. Quegli amori mai ricambiati. In passato a scuola sul banco incidevo frasi in un cuore, l'ho sognata in abito bianco, dei suoi baci ho sperato il sapore, nel silenzio è duro l'amore, da ogni cosa ti senti ferire, uno sguardo e ti frega il rossore, sulle gote per farti tradire, come allora lo stesso colore. Sembra il tempo non sia passato, nel tormento lo stesso bruciore di quando l'amore non è ricambiato. Per strada a sentire la vita, distrarsi è la cosa migliore, dalla pena di una storia finita, nemmeno iniziata per difetto d'amore.